Anco Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali e che tanti schei 24 mattino. Eccoci qui, sono le 7 e 15 minuti in punto nel momento in cui siamo alla rassegna stampa di 24 mattino, cioè lo spazio in cui leggiamo cosa ci propongono i giornali che sono in edicola. E allora, caro Peter Bescapè, andiamo a vedere che cosa offrono. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a mercoledì 26 luglio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, Ape, bonus donne, anticipo più facile dell'integrativa, ma l'allarme della ragioneria dall'altra parte, le pensioni crescono più del PIL, è il titolo di prima pagina. Poi i vitalizi, l'addio ai vitalizi agita i democratici, Grillo, idea nostra, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Anche il giornale Vitalizi, ecco quanto perdono Fini, De Mita e Bertinotti. Questi sono gli esempi che vengono messi in prima pagina dal giornale. Poi l'attualità internazionale da cui partiremo è l'apertura per Repubblica, Libia, intesa Parigi, un piano per la pace. Così la stampa, Libia, il blitz di Macron oscura l'Italia. E il Messaggero, intesa sulla Libia senza l'Italia, è l'apertura di prima pagina. Rosso di rabbia invece, ed è Pisapia, è l'apertura del giorno, perché il giorno racconta della forse frattura insanabile tra Pisapia e quelli di MDP, Bersani e D'Alema, per il famoso abbraccio a Maria Elena Boschi. A me appare tutto incredibile. Ma è incredibile la politica italiana, eh? Che fai, mi abbracci? È il titolo del Manifesto e mette la foto di un abbraccio tra Pisapia e Bersani e rievoca anche il che fai, mi cacci, no? Ricordate, di Berlusconian finiam memoria. La Verità invece all'apertura sulla classifica dell'Agenzia Nazionale, i migliori e i peggiori ospedali italiani, questo è il titolo di prima pagina. Ma come detto, partiamo dall'attualità internazionale per una volta, perché a Parigi è successo qualcosa che bisognerà vedere che effetti produrrà, magari nessuno, magari è solo una stretta di mano, magari è un patto vero e proprio. Certo, i due maggiori responsabili politici della Libia si sono stretti la mano. Si tratta del premier di Tripoli, Fayez al-Sarraj, che è colui che è sostenuto anche dall'Italia, e dall'altra parte il generale Khalifa Haftar, che controlla l'est della Libia, si sono stretti la mano davanti al presidente francese Emmanuel Macron, che sicuramente segna un punto a suo favore per quel che riguarda anche la leadership internazionale. Come racconta Elisabetta Rosaspina, pagina 8 del Corriere della Sera, assomiglia più a una tregua che a un vero e proprio trattato di pace. Ma nella roadmap del presidente francese Emmanuel Macron, il documento firmato ieri nel castello alle porte di Parigi dai due principali leader della guerra civile in Libia, condurrà dritto alle prime elezioni democratiche, preferibilmente già nella prossima primavera. Le strette di mano possono essere illusorie, insegna quella di Oslo del 93 davanti a Bill Clinton tra Rabin e Arafat, quindi Israele e Palestina. Ma per il neopresidente della Repubblica Francese, aver riunito attorno allo stesso tavolo il primo ministro del governo di unità nazionale di Tripoli, al-Sarraj, legittimato dall'ONU, e il generale Haftar, comandante dell'esercito che controlla l'est del paese, e averli convinti a firmare una dichiarazione congiunta che impegna le due fazioni al cessate il fuoco e alla ricerca di una soluzione politica del conflitto, è già un successo indiscutibile dopo 6 anni di sangue e caos in Libia. Ora bisognerà vedere cosa succederà dopo questa stretta di mano, ma tutti i giornali, Repubblica lo mette a pagina 2 e 3 con l'articolo di Pietro Del Re, il cessate il fuoco, le elezioni, questo è l'impegno che hanno assunto davanti al presidente francese. Ovviamente tutto ciò esclude un po' l'Italia, un po' più di un po', nel senso che è una situazione in cui l'Italia che ha un rapporto storico, lo sappiamo, con la Libia, è stata, secondo molti giornali, anche scavalcata in maniera vera e propria. E tra l'altro Alberto D'Argenio su Repubblica racconta invece che il governo Gentiloni ha dato il via libera al rinnovo di Sophia, cioè la missione navale di fronte alla Libia, ma ottiene crediti nella gestione comune degli sbarchi e personale europeo nella centrale di Tripoli. Quindi sul fronte libico c'è anche la questione dell'immigrazione. Creazione di una task force Unione Europea-Italia per la gestione estiva degli sbarchi con una dote da 100 milioni di euro per Roma. Militari dell'Unione a Tripoli per controllare le operazioni della Guardia Costiera Libica e lavoro sotterraneo per aprire alcuni porti europei alle navi che salvano vite nel Mediterraneo centrale, almeno nei periodi di flussi eccezionali. Il governo Gentiloni dal via libera al rinnovo di Sophia, questa missione navale europea di fronte alle acque libiche. In cambio ottiene crediti nella gestione comune degli sbarchi. C'è però di più, perché oggi Bruxelles farà un nuovo passo formale contro Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca. La Commissione europea darà ai loro governi un mese di tempo per accogliere la propria quota di richiedenti asilo ospitati dall'Italia e dalla Grecia. Il secondo step della procedura di infrazione per non aver accettato nemmeno un migrante è un nuovo forte segnale politico contro Budapest, Varsavia e Praga. Se non si adegueranno a settembre, le tre capitali ribelli finiranno di fronte alla Corte di Giustizia europea, marciando verso le sanzioni dell'Unione europea. Quindi questo è un punto sul quale Gentiloni e il governo Gentiloni ha messo, come dire, se volete, un punto nel proprio, una freccia al proprio arco per cercare di affrontare la questione, la soluzione e la situazione immigrazione insieme. Tra l'altro, sempre per rimanere in ambito internazionale, voglio segnalarvi invece un altro fronte molto attivo. Sulla Stampa c'è un reportage molto intenso di Giordano Stabile, che è inviato a Raqqa in Siria. Raqqa, una delle ultime roccaforti, una roccaforte per anni dell'ISIS. Ed ecco allora il reportage da Raqqa sulla linea del fronte tra rovine, cecchini e mortai. Racconta Giordano Stabile per La Stampa a pagina 6. Il comandante Jihad Kabad è piccoletto e tosto. La barba corta, curata, nella mano sinistra tiene la radio, con la destra fa scorrere sul tablet la mappa della città vecchia di Raqqa. I suoi uomini, piazzati negli edifici lungo la linea del fronte fra il quartiere di Al-Sinaa e quello di Rafika, a poche centinaia dalle mura antiche, comunicano in continuazione le coordinate. È la caccia ai cecchini che sbucano dalle viuzze del centro storico e cercano di colpire le pattuglie in movimento da una postazione all'altra. Inizia così questo reportage, e in questo reportage Giordano Stabile fa anche un incontro particolare, perché incontra Claudio Locatelli, 29 anni, originario di Curno, provincia di Bergamo, che viene anche fotografato con tanto di Kalashnikov in mano. Di sé si definisce ex barista, ex giornalista, freelance, in passato attivista per i diritti civili umani, oggi fa parte della Brigata Internazionale del YPG, modellata su quelli che combatterono in Spagna durante la guerra civile negli anni 30. Ci sono tra di loro danesi, tedeschi, americani, canadesi. Sono venuti qui per la causa curda e per distruggere l'ISIS. E tra questi c'è anche lui. Mi son fatto un tatuaggio per i morti di Parigi e uno per i morti di Londra, racconta Locatelli. Ma la cosa che più mi ha spinta a venire qui è stato il massacro degli Yazidi. Lo stupro di un intero popolo. Questo è l'ISIS, un mostro contrario a tutti i nostri ideali. Non potevo limitarmi a fare l'attivista, a denunciare, dovevo combattere. Loro vedono le donne come schiave. Noi lottiamo a fianco delle guerrigliere yazide ed è un onore. E insomma, e quindi questo è un italiano in una brigata internazionale, tra cui c'è anche questo Claudio Locatelli, 29 anni, originario di Curno, provincia di Bergamo, che è a Raqqa sulle linee del fronte e Giordano Stabile per La Stampa racconta questa storia. Rimango sulla stampa, ma in realtà la notizia è su tutti i giornali, abbiamo sentito anche nel giornale radio. Per venire alla cronaca italiana, beh, la notizia forse di cronaca più interessante è quella del nessun legame vaccini autismo, un qualcosa a cui la scienza era già arrivata da tempo, visto che l'abbiamo detto tante volte, l'unico medico inglese Andrew Wakefield che disse che c'era un legame tra vaccini e autismo fu poi radiato perché ammise di avere nascosto delle verità e avere falsificato la sua ricerca. Ma da allora si è propalata questa idea mai provata scientificamente e ora negata anche da un giudizio, cioè la Cassazione ha confermato una sentenza emessa sia in tribunale sia in appello per il caso di una persona che ha portato il proprio caso dicendo i miei figli sono autistici in quanto sono stati vaccinati e questo c'è una correlazione. Ora anche i giudici della Cassazione dopo il primo grado e l'appello hanno detto che non esiste alcuna prova scientifica del legame tra vaccini e autismo. Ovviamente cosa succede? Succede che per i free vax o no vax, che ancora salutiamo con tanto affetto per i tanti insulti che ci mandano, non cambia nulla, come racconta Francesca Paci a pagina 11 della Stampa. Per noi non cambia nulla, i medici mentono. Questo è il titolo dell'articolo, che fa capire un po', come dire, l'approccio molto ideologico che c'è. I giudici fanno sempre così, negano l'evidenza. Quindi il concetto è che è evidente, se poi la scienza dice di no è prezzolata, se i giudici dicono di no sbagliano. Quindi, come diceva mio papà, te che sempre resunti, cioè hai sempre ragione te, non come dire, a questo punto alzo le mani e non si può discutere. I giudici fanno sempre così, negano l'evidenza, si ostinano a difendere i vaccini nel nome di una sanità che è piuttosto insanità e non capiscono che la gente è stufa, che sta montando un movimento di genitori ribelli, che sempre meno italiani credono nel presunto rimedio alle malattie dei loro figli. Così Giorgio Tremante, un fiume in piena. La sentenza della Cassazione gasa anziché deprimere il rappresentante più noto della campagna Novax che battaglia da 40 anni. Da quando, dunque, secondo alcuni studiosi, per colpa del Sabin ha perso due figli ed è rimasta a occuparsi di Alberto, sopravvissuto con gravi handicap. La decisione della Corte Suprema fa discutere la comunità di medici e giuristi, ma non quelle madri e quei padri convinti della mala fede della scienza in materia. I toni non sono tutti bellicosi, alla maniera di Tremante, ma con mille sfumature prevale la linea dell'indifferenza. Per questa sentenza per loro non cambia nulla. E comunque Francesca Paci fa poi un viaggio sentendo le varie voci dei free vax o no vax, dando spazio alle loro tesi, alle loro teorie, che si fanno beffe di questa sentenza, praticamente dicono non cambia nulla, non ci crediamo. A proposito di cronaca però, io vorrei fare un salto ora sul Giorno, perché se voi prenderete il Giorno troverete una notizia di prima pagina che ci riporta a qualche anno fa, una delle pagine più oscure della cronaca giudiziaria italiana, cioè il mostro di Firenze. Perché il Giorno racconta l'ennesima verità, c'è un nuovo indagato, una pista nera. Pagina 2 e 3 del Giorno, mostro di Firenze, spunta la pista nera. E c'è un indagato, sotto torchio c'è un 86enne del Mugello legato ad ambienti dell'estrema destra e dei servizi segreti. Le accuse della procura sono queste: ebbe un ruolo negli omicidi. Stefano Brogioni racconta la storia di un ex legionario, originario del Mugello come Pacciani, abile a sparare, appassionato di armi, frequentatore di poligoni, legato ad ambienti dell'estrema destra e ai servizi segreti. Si racconta che organizzasse campi di addestramento sulla Calvana negli anni della P2 di Gladio. Ora è ufficialmente sospettato di aver avuto un ruolo negli omicidi del mostro di Firenze. 32 anni dopo il delitto degli Scopeti, l'ultima delle 8 coppiette trucidate con la solita introvabile beretta calibro 22, C'è almeno un altro indagato per la storia che ha fatto conoscere al mondo il lato più oscuro del capoluogo toscano. I più attenti si ricorderanno di Giampiero Vigilanti, classe 1930, perché lambito dalle indagini che poi virarono su Pacciani e i compagni. Da diversi mesi Vigilanti, ora residente a Prato, è sotto torchio. Lui, alto e forte, anche oggi che ha 86 anni, è stato accompagnato nei luoghi dei delitti. Dice e non dice, sembra però sapere. Molto, tanto che dalle sue parole i carabinieri sono arrivati a perquisire anche un medico che vive in Mugello, il cui grado di coinvolgimento è ancora da chiarire. Insomma, Il Giorno racconta di questa svolta, l'ennesima in questi misteri legati al mostro di Firenze. Si racconta di questo Giampiero Vigilanti, 86 anni, che è indagato e che sui quali si sta cercando di capire, su quali si sta cercando di capire se abbia avuto o meno un ruolo nella vicenda del mostro di Firenze. Ma siamo all'articolo che mi fa pinzare della giornata, ed è uno strascico, se volete, dell'intervista che il sindaco di Roma Virginia Raggi ha rilasciato al Messaggero ieri. Il Messaggero si concentra, perché ieri Virginia Raggi è partita dicendo: useremo il pugno di ferro contro le inefficienze delle società partecipate al Comune di Roma. A cosa si riferiva? Oggi Il Messaggero lo racconta. Lorenzo De Cicco e Giuseppe Gioffreda. In 3.000 assenti ogni giorno, lo scandalo delle partecipate. Pensate questi numeri, tra malattie, permessi 104, fantasiose licenze per andare a messa o per fare il trasloco. Ci sono anche queste con autocertificazione, ovviamente. Nella galassia delle aziende del Campidoglio si assenta ogni giorno quasi il 12,6% dei dipendenti. E ieri abbiamo parlato dei dipendenti pubblici, mamma mia, e ci hanno massacrato dicendo che noi siamo dei qualunquisti, che distruggiamo tutto il comparto dei dipendenti pubblici. Io e Oscar Giannino invece non è vero, non abbiamo mai fatto, come si suol dire, di tutta l'erba un fascio, ma guardate qua. Sembra un assist su cui oggi torneremo. Il 12,6% dei dipendenti delle partecipate ogni giorno è assente. Sia chiaro, ferie e riposi settimanali esclusi. Significa che lasciano sguarniti i turni tra autisti di autobus, netturbini o impiegati. 3.000 addetti su 22.700, uno ogni 8. Questo tenendo in considerazione solo le società partecipate al 100% del Comune di Roma. È contro di loro che rischia di abbattersi il famoso pugno di ferro minacciato dal sindaco Virginia Raggi, ospite ieri al forum del Messaggero. In questo inglorioso ranking dell'assenteismo, sul gradino più alto c'è l'AMA, la municipalizzata dei rifiuti. L'ultimo report trimestrale dice che le assenze toccano il 14,9% dei lavoratori ogni giorno. All'ATAC, la malandata azienda trasporti pubblici, il tasso di assenteismo è il 12,1%. Eccolo qua, in 3.000 assenti ogni giorno, lo scandalo delle partecipate. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, due spalle rubate all'agricoltura. E va bene, alle 7:36 minuti. Signori, è il giorno dei vitalizi, ne parleremo anche noi più avanti, con la proposta di Matteo Richetti, che intanto ha spaccato il PD. La proposta di Matteo Richetti è quella del ricalcolo contributivo anche per il passato dei vitalizi. Lo stop ai vitalizi, il PD si divide. Beh, intanto Giuseppe Alberto Falci racconta a pagina 2 del Corriere della Sera che il dibattito parlamentare ha raggiunto le solite questioni surreali ed epocali, con dichiarazioni francamente che poi sì, alimentano un po' il populismo, però udite, ma il parlamentare Enzo Raisi, 15 anni alla Camera, alla fine di una riunione definita abbastanza concitata all'interno del Partito Democratico, sbotta: ho fatto male a far politica, era meglio rubare. Oppure c'è l'onorevole Baldelli, abbiamo sentito anche alle 6:30, che con ironia dice: ma perché non istituiamo un bel reato di vitalizio? dai 2 a 8 anni di carcere per chi usufruisce del vitalizio. E vabbè, qui siamo all'ironia, ma stravince alla fine l'onorevole Ferdinando Adornato, che si lascia andare così. I parlamentari non possono essere uguali agli altri cittadini. Sapete perché c'era il vitalizio? Per garantire al parlamentare la libertà dal lavoro. Cioè, poi dopo, capite, uno legge questa dichiarazione e vai a dire... Io lo faccio quando ci sono le discussioni anche con gli amici, a dire: ma no, ma guardate che non è vero che tutti i parlamentari rubano, perché cioè, no, rubano tutti, ma no, ma non è vero, ma questo è qualunquismo e populismo. Cioè, vai a dire no, ma non è vero che i parlamentari non lavorano, i parlamentari lavorano molto, quelli che lavorano seriamente lavorano molto. E poi uno dice: la dichiarazione dell'onorevole Adornato, il vitalizio garantisce al parlamentare la libertà dal lavoro. Vedete voi, oppure, ma no, non è vero che i parlamentari non lavorano. Ne conosco di persone che stanno in commissione fino a tardi, che stanno in aula, che sono sempre in aula, che sono sempre presenti. Poi si può discutere del fatto che il Parlamento sia stato un po' ormai svuotato dai suoi poteri, che conti sempre meno, ma non è vero che i parlamentari non lavorano. Onorevole Carlo Taormina, intervistato dal Fatto Quotidiano: 150 deputati e 50 senatori lavorano, gli altri stanno lì solo a rubare lo stipendio e rubano così anche l'indennità. Ripeto, Carlo Taormina in Parlamento c'è stato abbastanza e dichiara questo oggi al Fatto Quotidiano: soltanto la maggior parte dei parlamentari non fa niente dalla mattina alla sera e magari non ci va nemmeno in Parlamento. Quelli non meritano il vitalizio. È ancor più ridicolo che su 630 deputati se ne lavorano 150 è grasso che cola. Il problema è stato preso dalla coda. E poi Taormina dice: io sono iscritto ora al Movimento 5 Stelle dal 2016, per cui sono in parziale dissonanza. Noi nel Movimento, si chiama, dice così, fa un po' sorridere sentire Taormina: noi nel Movimento abbiamo varie idee, questa è la mia. La mia è che l'assegno da ex deputato me lo voglio tenere, perché io andavo in commissione a lavorare fino all'una alle due di notte. E ci sono tutti i vari ricalcoli sui Corriere della Sera, sul giornale. Se dovesse passare questa riforma, che passerà alla Camera, ma guardate che poi non passerà al Senato, facciamo così una previsione, faccio una previsione e credo di vincerla questa scommessa con me stesso, l'approfondimento e i soldi dei politici è quanto sarebbe il ricalcolo. Per esempio, il giornale mette, non so, Publio Fiori, 8 legislature da 10.131 euro che prende, verrebbe ricalcolato a 6.079. Clemente Mastella da 6.939 euro scenderebbe a 4.164 euro. Cioè, capito, hanno definito questa macelleria sociale alcuni, eh? Ciriaco De Mita da 5.811 euro attuale scenderebbe a 3.486 euro di vitalizio. Cioè, ripeto, non è che li mettiamo alla fame, ricalcolando il contributivo. Gianfranco Fini da 5.882 euro scenderebbe a 3.529 euro di vitalizio. Emma Bonino da 6.715 euro al mese, lordi, immagino, sono tutti lordi. No, sono netti, 6.715, scenderebbe a 4.029 euro. Cioè, capite? Questo è un calcolo che c'è sul giornale. Cosa cambierà con una decurtazione media degli assegni del 40%? Eppure macelleria sociale, così l'ha definita l'onorevole Maino Marchi del Partito Democratico, che infatti viene intervistato dal Corriere della Sera. Ma lei l'ha definita macelleria sociale? Si rende conto, onorevole? Beh, il precedente potrebbe essere pericolosissimo, perché il ricalcolo della pensione andrebbe steso a tutte le professioni. Ecco perché sarebbe una macelleria. Io non sono relatore del testo Richetti, più semplicemente sono relatore in commissione bilancio. Alla fine che farà? Voterà a favore o voterà contro? Deciderò sulla base della discussione. Il testo così com'è non mi trova d'accordo. Il PD sbaglia a inseguire i grillini sui vitalizi perché da par loro non finirà l'attacco alla politica e alla casta. Rilanceranno sempre e avranno la meglio. A proposito di Beppe Grillo, ieri era in Parlamento a fare un po' lo show, a controllare, a visionare, come racconta Giovanna Vitale su Repubblica. Era sbarcato a Roma proprio per suonare la carica contro i vitalizi, ma poi dopo una breve apparizione nella tribunetta per il pubblico non ce la fa più e sbotta contro anche i rituali di un Parlamento che, parola di Beppe Grillo, è una parodia, uno psicodramma pieno di gente che sta fuori dalla realtà, così lo definisce. E poi si scaglia contro i senatori che tanto si sa come va, sono anziani, alla fine affosseranno tutto. Perciò oggi non tornerà alla Camera perché, definizione sua, è un teatrino e non fa per lui. Vabbè, questa vicenda dei vitalizi vedremo come andrà a finire. C'è una polemica politica che riguarda invece Pisapia. Beh, Pisapia è molto, molto arrabbiato. Si è definito proprio scocciato. È la questione surreale, a mio modo di vedere, dell'abbraccio a Maria Elena Boschi che ha dato il via a una discussione all'interno della sinistra tra Pisapia e MDP, con MDP che dice, con alcuni esponenti come Tommaso Montanari a dire, un avversario, è più di un avversario la Boschi, tutto ciò che non bisognerebbe mai incontrare se si vuole una sinistra alternativa. C'è un dibattito folle su un abbraccio, una cortesia da parte dell'ex sindaco di Milano che ora si dice molto molto arrabbiato e si è vicini alla rottura, come racconta Maria Teresa Meli a pagina 5 del Corriere della Sera, in un retroscena in cui Pisapia dice, sfogandosi con gli amici e collaboratori, io non faccio la bella statuina di Renzi e di D'Alema, non mi faccio manovrare, non ne posso più di MDP e dei loro attacchi strumentali, ora mi hanno proprio scocciato. Io voglio ricostruire il centro-sinistra, non fare come loro che vogliono l'unità delle sinistre. L'obiettivo è concorrere al governo del paese, non stare all'opposizione per far fallire Renzi. Questa è la posizione di Pisapia e chissà se questa posizione porterà a una rottura. Secondo Tommaso Ciriaco, a pagina 9 di Repubblica, nella tela di Giuliano Pisapia c'è la carta Prodi. A settembre il lancio del nuovo Ulivo. Sarà dunque una nuova idea di sinistra alternativa al PD, alternativa ad MDP, il nuovo Ulivo Pisapia Prodi? Sa tutto Mauro Meazza, meno male che ci può aiutare. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. C'è una cosa che non so, ma quale sarà l'alternativa ad Alessandro Milan? Non lo so, questo si vede. Perché l'alternativa a Milan, secondo me, guarda, scuote, interessa più dell'alternativa a Pisapia. Scuote le coscienze quasi quanto, quasi quanto l'alternativa a Pisapia. Intanto, scusa, forse scuote le coscienze anche il fatto che si riapre un po' il cantiere delle pensioni, come sì, hai visto sul Sole 24 Ore. L'ape, cioè l'anticipo, sai che c'è solo quello social per adesso, quello volontario, ma vedremo. Il decreto è in viaggio, arriverà prima o poi, avrà trovato lo traffico, come dice uno alla radio alla mattina. E la rita invece sai che è la rendita integrativa temporanea anticipata, sì, cioè quello che puoi chiedere al fondo pensione di categoria. Vabbè, ma è tutto spiegato da Davide Colombo e Marco Rogari a pagina 3, che te lo dico a fare, leggi da pagina 3 del Sole 24 Ore. Non ti dimenticare che oggi con il Sole 24 Ore c'è anche il Focus, 16 pagine dedicate ai benefit per i dipendenti e anche ai nuovi voucher, il nuovo libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale. Oh, adesso io so che tu in realtà stai contando le ore e il 31 di luglio ti sembra una data proprio, chissà, lunedì prossimo. Lunedì prossimo parto. Allora prendi la penna e la matita, per favore. Eccolo qua. Appena ti segni che il 31 luglio c'è la rottamazione delle cartelle, devi decidere. Sì. Devi decidere cosa fare, leggi norme e tributi 31, oggi. 31-7, ecco. Adesso poggia la penna e prendi la matita, okay. Perché ci sarebbe anche la scadenza per la volontà di scrajura. Non ce l'ho, vabbè, metto in penna, poi dopo penna inchiostro simpatico. Inchiostro simpatico. No, perché forse c'è la proroga, è tutto scritto a pagina 2. Me lo scrivo sulla mano, così puoi cancellarlo. Bravo, mi sembra una buona idea. Nel frattempo idea. Non la lavo, fino a quando... Beh. Aspetta, vabbè, dovrebbero intervenire, chissà, oggi, domani, vedi un po' quanto puoi resistere. Poi, fuori di celia, caro Alessandro, leggi l'articolo da meditazione, oggi la Cina e i porti del Mediterraneo, sì. La Cina è molto più vicina ai porti del Mediterraneo di quanto puoi pensare. Naturalmente ti voglio anche segnalare che sabato prossimo, per quanto tu sia in ferie, ci sarà la seconda puntata del Serpente Corallo. Ma certo, grande successo la prima, volevano già sospendere per troppo successo la prima. Sì, mi immagino. La radio più incosciente del mondo, Radio 24, che manda in onda il Serpente Corallo. E poi naturalmente mi hanno detto prima Peter Descapé, sì, che tu hai un appuntamento in realtà, venerdì tu hai un appuntamento. No, quando? Dove? Tu venerdì alle 7:15 sì? Devi presentarti qui alla sede di Via Monterosa 91 di Radio 24. Vabbè, un vero e proprio precetto. Vedo, se è già finita, guarda, Inter Bayern Monaco a Singapore. Urca. Allora mi presento, devo controllare con il fuso orario. Intanto so che comincia il Milan per i preliminari di come sì, si chiama? Noi siamo in Coppa. Lascia in stare, Coppa. Coppa, si chiama Coppa. Sì. Una cosa che voi, una cosa della squadra che sfidate, perché sembra un po' medicinale per la digestione. Craiova, credo. Il Craiova, cioè, mi pare ci fosse una C, una K in fondo. Va bene. Sì. Tutto ciò premesso, adesso guardo l'agenda per quanto riguarda venerdì. Sì. Non mi fai gli auguri per domani? No, vabbè, adesso non cominciamo questa cosa. Vabbè, i preliminari di Champions almeno te li condono, guarda. Vabbè. Traffico. Alessandro Milan, la patata bollente dell'informazione. Siamo qui allora con gli ultimi articoli della rassegna stampa di oggi. Voglio andare e tornare sulla stampa, perché sulla stampa si racconta della nascita di un nuovo canale in Italia, una nuova TV a pagamento, Canale Più, che ricorda molto il Canal Plus francese, ovviamente. La nuova TV a pagamento che sarà al 60% di TIM e al 40% di Vivendi. Domani all'esame del Consiglio di Amministrazione, Leonardo Martinelli racconta da Parigi: nuovo colpo di scena estivo dell'infaticabile Vincent Bolloré, avvistato in realtà alla messa della parrocchiale di Saint-Tropez le scorse domeniche. La sua Vivendi, la media company francese, propone a TIM, che controlla al 23,9%, la creazione di una nuova pay TV in Italia. E sì, una sorellina di Canal Plus, fulcro della galassia Vivendi. A Parigi si sono già lanciati nei soliti voli pindarici sulla nascita di un Netflix europeo, trionfante risposta latina al colosso americano, che poi erano gli stessi già sorbiti quando nella primavera 2016 Vivendi aveva annunciato la maxi alleanza con Mediaset, poi naufragata tra carte bollate. Ecco, proprio quello resta un punto interrogativo. Con il biscione come la mettiamo? La novità rappresenta un'ulteriore offensiva di Bolloré contro i Berlusconi o indirettamente una possibile via d'uscita dalla crisi? Cominciamo proprio da Canale Più. Proprio così, da noi, in italiano, si chiamerà la sorellina. Come specificato in una lettera ufficiale inviata ai vertici di Telecom Italia da Jacques Dupuy, presidente di Canal Plus International, la proposta è quella di una società comune che proporrà i film di Studio Canal, ne sforna almeno 25 all'anno, fiction già prodotte dai francesi, ma anche di nuove da produrre insieme probabilmente già a ottobre. Non solo, si prevede l'acquisizione di diritti sportivi che metterebbe la nuova entità in concorrenza con Sky e con gli altri. Fonti vicine a Canal Plus sottolineano che la partecipazione della società francese sarà minoritaria, probabilmente il 40% dunque di Vivendi e il 60% di TIM. Questa è una notizia, pagina 4, abbastanza clamorosa, data la stampa della nuova TV a pagamento che starebbe arrivando in Italia. In tutto questo, per rimanere all'estero, c'è la vicenda che ancora viene raccontata dai giornali di Charlie Gard, ormai di questo bambino di cui si è detto e scritto tantissimo, anche molto a sproposito per la verità. si contano ormai le ultime ore, come hanno detto gli stessi genitori, non arriverà a compiere il primo anno a inizio agosto, non arriverà al mese di agosto. E l'ultima di sfida sembra quasi anche un qualcosa di inumano, effettivamente messa così, perché i genitori hanno chiesto: Charlie venga a casa con noi, ma l'ospedale è contrario all'appello dei genitori. E anche qui dunque deciderà il giudice, cioè se dovrà finire la sua vita, la sua brevissima vita, a casa, come chiedono almeno i genitori, o se bisogna porre fine alla sua vita staccando la spina in ospedale. E anche questa è l'ultimo, come dire, se volete, conflitto giudiziario che ci sarà tra i genitori e i giudici e la giustizia britannica. In tutto questo, prima ho citato Berlusconi, sul Messaggero trovate un'intervista a Veronica Lario. Non stupitevi anche se l'ho lasciata qui, perché parliamoci chiaro, non è un'intervista in cui si parla di Draghi, vergini, questioni pruriginose, eccetera. Ma Maria Latella, che ha scritto il libro di Veronica Lario, che conosce bene Veronica Lario, e che è anche un po' la nostra Maria Latella, visto che ha una trasmissione di successo anche qui a Radio 24, intervista Veronica Lario sulla questione del film, il film di Sorrentino, anche perché Maria Latella svela che è stata lei a far incontrare a casa sua Paolo Sorrentino, regista, e Veronica Lario. E racconta, attraverso le parole di Veronica Lario, cosa vuol dire questo incontro tra l'ex moglie di Berlusconi e il regista. Sorrentino mi disse: sarà una storia d'amore. Tra l'altro, dice Veronica Lario in questa intervista di Maria Latella sul Messaggero, non so ancora come sarà il film, ma mi piacerebbe raccontare una storia d'amore. Di certo non si parlò in quell'incontro col regista in alcun modo di quanto era accaduto tra me e il mio ex marito dopo la separazione. Ho stima per il regista, conosco e ho stima per Tony Servillo. Riguardo all'attrice che interpreterà Veronica Lario, cioè Elena Sofia Ricci, risponde: lei è molto brava, so che però c'è anche un'attrice francese, Marion Cotillard, che fisicamente non mi somiglia ma sento in qualche modo vicina. E poi dice, insomma, gli incontri con Paolo Sorrentino, insomma, un'intervista non pruriginosa, ma un'intervista in cui si racconta di questo film. Alla fine, cosa fa oggi Veronica, ex Berlusconi? Ho 5 nipoti, sono una nonna a tempo pieno. Va bene, dai, siamo all'ultimo articolo, l'articolo e la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo alla Gattaland della Versilia, una pagina intera piacerà al mitico Oscar, sull'oasi felina, il gattile più bello del mondo, su Libero. Ma chi se ne frega!